Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata in cui come sempre sarà presente anche la nostra poco invidiabile classifica. Io lo so che rovina l'umore di molte persone che magari si stanno spostando, iniziano a spostarsi per le vacanze di Natale, ma tant'è. E poi, come promesso, avremo anche, come sempre facciamo ormai da anni in questo periodo, da un lato la visione di chi investe soldi che gestisce su società quotate o anche non quotate, e quindi un private equity classico, sull'andamento dei mercati futuri, ma anche della nostra mitica astrologa Grazia Mirti. Ormai ci accompagna da anni, colei che scrisse il libro con, per i tipi del Sole 24 Ore, ormai anni fa, Investire con gli astri, giusto per alternare una cosa molto analitica di chi il lavoro lo fa con le previsioni astrologiche, anche per dare un po' di leggerezza prima che iniziate a criticarla. Per quello che riguarda la classifica, oltre alla classifica ci sono anche come sempre i mercati finanziari, meno 0,20% in questo momento Milano, meno 0,40% Parigi, meno 0,30% Francoforte, meno 0,15% il Dow Jones, Londra anch'essa meno 0,15%. Si segnalano oggi tra i titoli a maggiore capitalizzazione soprattutto Buzzi Unicem più 2%, Recordati più 1,60% e poi un po' più staccato Luxottica più 0,88%, Ferrari più 0,80%, Moncler più 0,70%, come Tenaris e Banca Generali, mezzo punto per Campari. Fronte opposto, Biper Bank perde l'1,80%, IUX Santa Portella 1,20%, come il Banco BPM 1%, il calo di Leonardo e di Italgas, ma anche di Unicredit lo 0,60%, quello di UBI Banca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, se ne sono occupati i nostri GR24 e se ne occuperanno il Bitcoin. Io non voglio dire l'avevamo detto, anche perché il valore resta ancora molto alto, però è crollato di un altro 21% oggi, sotto quota $13,000, ed è sceso dal picco, diciamo, degli oltre $20,000, ha perso 40%, 50%, adesso il calcolo del mese non ce l'ho sotto mano, però... ed è sceso ulteriormente, perché adesso, oltre ad essere sceso sotto i $13,000, è sceso anche sotto quota $11,000, $10,775. Pochi giorni fa UBS aveva definito il Bitcoin la più grande bolla speculativa della storia. I sostenitori sono invece convinti che si tratti di un punto di svolta nel mondo della finanza. Cosa è successo? Sembra che siano state favorite queste vendite da un attacco hacker a una piattaforma che tratta la criptovaluta in Corea del Sud nei giorni scorsi, dovrebbe essere avuto questo attacco, e da un'indagine interna da parte dell'americana CoinDesk. Il punto è che non esiste valuta, tranne che in casi rarissimi di default, di fallimento, che possa perdere il 25% del suo valore in un giorno o il 50% in un mese. Le valute si muovono, per carità, e nell'arco del tempo, insomma, ma perdono un 5, 10, 20% nell'arco di settimane, e con dei motivi. La ragione vera del nostro scetticismo sul Bitcoin è che tu puoi immaginare che se c'è un crack finanziario, è ovvio che la valuta di quel paese ne risenta, e ne può risentire anche in maniera brusca. Il problema è che c'è sempre un motivo sotto, una ragione, uno può analizzare l'andamento dell'economia di quel paese. Invece col Bitcoin non c'è mai un motivo, non c'è un motivo per cui va a 20.000, non c'è un motivo se non queste voci per cui scende 11.000 e perde quasi il 50% del suo valore. Vabbè, della Catalogna invece avete sentito e hanno detto già nei nostri GR24, la posizione dell'Unione Europea non cambia, e il portavoce ha detto: non vogliamo commentare questa elezione regionale, abbastanza chiaro. Dunque, qualcuno mi dice: l'oro non è valuta, è un bene rifugio. Sì, certo, però l'oro, a parte che si muove in maniera molto diversa, si basa anche sulle riserve d'oro. Quando una banca centrale, come è accaduto anni fa, immette sul mercato una grossa quantità di oro, il prezzo si abbassa. E poi abbia pazienza, ma l'oro lei fisicamente ce l'ha. Voglio dire, si vuole comprare un lingotto d'oro come bene rifugio, ha il suo lingotto d'oro, se vuole lo va a ritirare, se lo mette in stanza, lo guarda. Cioè esiste qualcosa, esiste un prezzo dovuto anche da un lato alla domanda come bene rifugio, ma dall'altro anche alla produzione, quindi ricerca di oro, e appunto a quello che fanno anche le banche centrali. Cioè ci sono dei motivi, ed è un bene fisico, come sa chiunque abbia visto la proliferazione dei compro oro negli anni peggiori della crisi anche in Italia. Dalla catenina al lingotto vai in un compro oro e gli vendi l'oro. Io non ho capito Bitcoin ancora come faccio a, come possa fare a venderlo al di là della transazione peer to peer, cioè tra, tutta criptovalutaria, ma nel momento in cui poi ne ho bisogno. Veniamo all'Italia, l'Istat, la fiducia dei consumatori a dicembre segna il livello più alto da due anni a questa parte, dal gennaio del 2016, a 116,6 punti. Stabile invece l'indice di fiducia delle imprese a 108 punti. Spiega l'Istat che il miglioramento della fiducia dei consumatori è essenzialmente dovuto alla positiva evoluzione della componente economica e di quella corrente. Mentre, quindi quando vi viene chiesto come va in questo momento, mentre l'aumento è più contenuto per la componente personale futura, cioè se ti, alla domanda com'è secondo lei la situazione economica e come sta andando, c'è un tasso di fiducia più alto, da 139 a 143 punti, mentre la fiducia è più bassa alla domanda com'è secondo lei come sarà la prospettiva futura e soprattutto com'è la sua situazione personale. L'industria ha fatturato a ottobre più 1,1% sul mese, più 9,5% sull'anno. Nei primi quindi il dato che non interessa di più è il tendenziale, il 9,5% di aumento del fatturato dell'industria rispetto a ottobre 2016. In realtà, correggendo per gli effetti di calendario, è un più 6%, che è comunque un dato ottimo, di tutto rispetto. Complessivamente nei primi 10 mesi del 2017 il fatturato dell'industria ha fatto più 5%, grazie soprattutto all'andamento del fatturato sull'estero, più fermo invece quello del mercato interno. Gli ordinativi sono cresciuti a ottobre del 12,5%, nei primi 10 mesi dell'anno comunque gli ordinativi all'industria sono aumentati del 6,3%. Poi, come spiegava giustamente anche ieri Matteo Zoppas, nostro ospite, nell'inchiesta, nel viaggio che stiamo compiendo tra l'Italia che vede crescere l'economia ma crescere anche il rancore, attenzione che i fatturati sono una cosa, gli utili un'altra, e spesso a una crescita dei fatturati, proprio per via del processo di trasformazione che hanno fatto le imprese, non corrisponde una crescita analoga degli utili, che vuol dire che hai tenuto botta coi fatturati anche riducendo i margini e riducendo anche i margini di utile. L'Ilva, appello oggi del Presidente del Consiglio Gentiloni sia al Presidente della Regione Puglia Emiliano che al Sindaco di Taranto Melucci. Si è rivolto ai due, Gentiloni, facendo appello alla loro responsabilità e sensibilità istituzionale che ben conosco. Vi chiedo di ritirare il ricorso al TAR e di non mettere a rischio interventi per la bonifica ambientale e il lavoro che Taranto aspetta da anni. Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dice di essere a disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri per un incontro, e invece il Vice Ministro Teresa Bellanova, al termine dell'incontro odierno al Ministero dello Sviluppo Economico, ha detto la trattativa continua perché questo è il tavolo principale. Il tavolo di cui parla Bellanova però è quello che non ha gli enti locali, cioè non ha regione e comune, ma l'azienda e i sindacati con il governo che fa, come sempre in questi casi, da mediatore. Ma i tavoli sono questi, i tavoli, le relazioni industriali in questo paese sono abbastanza consolidate e dicono che le relazioni industriali si fanno tra le organizzazioni sindacali e le aziende, gli altri possono essere incontri di confronto che non fanno male se non sono gestiti in contrapposizione. Noi dobbiamo fare ogni sforzo per mettere al riparo da contrapposizioni strumentali o anche da rapporti logorati tra persone una trattativa che riguarda decine di migliaia di persone. Tra l'altro qualcuno mi scrive, io sono d'accordo, cioè va bene tutto, va bene il territorio, gli enti locali, però che un progetto di interesse nazionale come l'ILVA possa essere bloccato da un semplice ricorso, non lo so. Qui stiamo parlando del primo gruppo, era il primo gruppo di produzione d'acciaio a livello europeo con i dipendenti e quant'altro. La cosa interessante però è che tutti i sindacati, non solo la FIOM di Genova, perché l'ILVA, noi parliamo sempre dell'ILVA di Taranto, ma è uno stabilimento importante anche a Genova, sono tutti contro Emiliano e il sindaco di Taranto. Allora, per carità, io posso, ma è un po' singolare questa vicenda, cioè sono preoccupatissimi che questa iniziativa, che molti vedono per motivi elettorali, che a noi è sembrata apolitica, cioè non va prima a verificare che cosa dice il tavolo o chiedere un monitoraggio più stringente dell'impatto ambientale che avrà e di come verranno rispettati i tempi e gli investimenti per mettere in sicurezza e fare la bonifica ambientale, fa un ricorso preventivo e poi ci si siede eventualmente al tavolo con il rischio che tutto si blocchi. Io lo trovo una follia di carattere demagogico e anche populista, quindi chiaramente con l'unico obiettivo elettorale per il sindaco di Taranto, non lo so sicuramente, ma in primo luogo per il presidente della regione Puglia Emiliano, che su cui ancora aspettiamo spiegazioni invece sui costi faraonici della sede della regione Puglia a Bari. Abbiamo raccontato l'anfiteatro, la fontana, di tutto lì, non importa, no? Se c'è da cavalcare il no tap oppure il bloccare l'investimento sull'IVA, invece siamo in prima linea. Comunque il responsabile siderurgia della FIOM CGL, non l'ultimo arrivato, Rosario Rappa, dice che le dichiarazioni fatte dal presidente della Regione Puglia Emiliano sulla non rappresentatività delle organizzazioni sindacali presenti al tavolo ILVA rappresentano una gratuita provocazione che fa pensare ad una partita tutta politica. Il segretario generale della FIM CIS, Marco Bentivogli, ha detto che l'incontro tenutosi oggi al Ministero è stato proficuo, si è fatto il punto del confronto e su quali siano ancora i nodi da sciogliere, ed è intervenuto anche Rocco Palombella, segretario generale della UILM. Allora sentiamo sia Bentivogli che Palombella augurarsi che insomma si possa arrivare a un accordo e sostanzialmente dire che da Emiliano sta arrivando solo una grandissima confusione. Rispetto alla rappresentatività sindacale, non è mai esistito un governatore di regione che certifica la rappresentanza sindacale dentro uno stabilimento e che organizza e autoconvoca delle riunioni in contrasto con quelle istituzionali a livello di governo per ritardare ancora di più l'ambientalizzazione e creare problemi. Questa trattativa non ha bisogno di entrare nella campagna elettorale, ha bisogno di un confronto vero, e invitiamo ancora una volta il sindaco di Taranto e il governatore Emiliano a un senso di responsabilità che fino adesso non hanno dimostrato. Ma noi oggi continueremo a negoziare con Mittal e con il governo, perché riteniamo che la risposta migliore che si possa dare è quello di riuscire a raggiungere un accordo sul piano industriale e delle anticipazioni sul piano ambientale. Quindi noi riteniamo la giornata di oggi una giornata importante, perché siamo convinti di stabilire un calendario di incontri che ci porti nel giro di pochissimo tempo a una conclusione negoziale. Vabbè, poi uno può dire i sindacalisti non sanno di cosa parlano, però è strano che tutti, cioè compresi i sindacati, sono preoccupati e parlano di populismo e di confusione, di questa iniziativa dei due, Emiliano e il sindaco di Taranto. Oh, vabbè. Detto questo, insomma, speriamo che non succeda, che il rischio non sia quello di vedere lo stop dei lavori con l'Epifania. Dunque, tra l'altro, visto che parliamo di Puglia, faccio notare che la Xylella è arrivata una conferma della rivista del gruppo Nature, in cui viene verificato, dimostrato che la Xylella fastidiosa, come si chiama, nella sua varietà pugliese, è responsabile del disseccamento rapido degli ulivi e della conseguente devastazione del territorio salentino. È l'ennesima conferma dopo una serie di documenti emessi da FAO, Accademia dei Lincei, che appunto indicavano nel batterio il killer delle piante pugliesi. Questo lo dico perché nel passato i ricercatori italiani erano stati accusati, quindi adesso lo dice anche Nature, da gruppi di militanti pugliesi sostenuti da esponenti di alcune aree politiche che dicevano la Xylella non c'entra niente, chiedevano altri rimedi per la moria degli ulivi privi di qualsiasi appiglio scientifico. La storia della Xylella non la posso affrontare oggi, ma è interessante per capire quanto l'ideologia ambientalista, che si basa solo su fake news in questi casi, abbia contribuito alla diffusione della Xylella. Questa cosa va detta, porca miseria. Non è solo il problema dei 220 ulivi da spostare e poi rimettere lì. Se andate a studiare la storia della Xylella, vi accorgete che il tentativo di contenere i primi focolai della Xylella, di ulivi malati, viene vanificato dal fatto che perché i gruppi ambientalisti, non tutti, quelli si mettono a protestare e a fare le barricate contro l'abbattimento degli ulivi. Conseguenza, la Xylella si espande e sta risalendo il Salento. Io non so perché in Puglia in questo periodo ci sia una specie di annebbiamento complessivo quando si parla di tutto. Cioè, sembra che improvvisamente stiamo parlando di una valle così fatta di petali, di fiori, non della Puglia che ho visto e che conosco bene io, che è fatta di bellissime città, bellissime coste, ma anche coste deturpate dagli stessi pugliesi e dall'abusivismo edilizio degli stessi pugliesi in questi decenni. E per favore, vabbè, adesso prima di scaldarmi, ho tempo perché adesso inizia la classifica, allora andiamo subito su meteo, pubblicità, poi la classifica, poi il caso virtuoso e poi Giovanni Tamburi con l'astrologa. 349, a chi mi scrive: quindi la gente che muore nel quartiere Tamburi è una posizione ideologica? No, e infatti non da adesso c'è un'inchiesta che ha bloccato i beni della famiglia Riva per non avere, quando era proprietaria dell'Ilva, ottemperato a quanto aveva promesso. C'era una regione che a quel tempo non vedeva, perché vi vorrei ricordare la storia, parte dei soldi che servono per la bonifica vengono dai beni dei Riva, se non ricordo male 1.200.000.000 di euro. Per cui si sta solo dicendo: se adesso c'è un piano di messa in sicurezza e di bonifica ambientale, perché bloccarlo prima che parta? Perché non chiedere magari elementi più stringenti, confronti più frequenti, ma intanto farlo partire? Perché la cosa interessante è che il problema dell'Ilva nasce dal momento in cui lo compra un privato indiano, cioè prima, voglio dire, coi Riva, ma prima ancora quando era dello Stato, non inquinava l'Ilva, no? Per nessuno, neanche per i sindaci, neanche per i governatori della regione. Adesso che lo compra uno straniero, perché, diciamo, quella è la cordata, principalmente uno straniero, alla sua metà l'Ilva diventa il problema. E va bene. Dai, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e che mi manca? Basta, mi manca solo lanciare il meteo. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. La classifica della settimana. minuti. Allora, al quinto posto della nostra classifica, uno dirà: lei ce l'ha con Emiliano? No, voglio solo far notare che esistono anche problemi più urgenti in Puglia, e soprattutto che tutto questo movimentismo del governatore Emiliano, a mio avviso, ha un effetto molto così mediatico. Sì, il TAP, i 220 livelli del TAP, adesso bloccare tutta l'ILVA. Chiedo, ma perché non abbiamo ancora ottenuto risposta sui costi della nuova sede della Regione Puglia? Mi sembra una cosa più interessante. Costerà 20, non è mai sta finita, ma costerà sicuramente 20 milioni di euro in più la nuova sede del Consiglio europeo. Sto parlando di Palazzo Europa, che si trova a Bruxelles ed è sede del Consiglio europeo, accoglierà tutti i leader. Dico semplicemente, perché faccio questo esempio? Perché per farlo ci sono voluti 12 anni. Invece in Puglia, per fare la nuova sede del Consiglio regionale pugliese, non basteranno 15 anni di attesa. Lavori cominciati nel 2012, progetto del 2002. La regione sta indagando su se stessa dopo che l'azienda che si è aggiudicato i lavori ha presentato un insieme di riserve, vale dire richieste di ulteriori pagamenti. Ricordo che fu necessaria una bonifica per eliminare gli ordigni presenti nel terreno della seconda guerra mondiale, 4 varianti e qualcosa. Ma perché ne stiamo riparlando? Perché tra l'altro lì c'era di tutto dentro, lo raccontammo, c'erano 24 milioni di euro in più di nuovi lavori, la fontana che avrebbe dovuto essere collocata al centro della nuova sede della Regione Puglia non si farà per fortuna, ma al suo posto sorgerà un anfiteatro da 250 posti, non si capisce bene perché, ma va bene così. Faccio notare che in Puglia oggi c'è un'altra notizia, siamo appunto al quinto posto, la sanità, che io immagino, essendo di competenza regionale, immagino che la prima cosa, il primo obiettivo di qualunque governatore sia mettere in efficienza la struttura sanitaria, anche perché alla Puglia costa tantissimo, come altre regioni del sud, pagare il cosiddetto turismo sanitario, cioè la mobilità passiva di chi va a farsi curare in altre regioni. Allora, attenti bene, in realtà il dato è in peggioramento, i viaggi della speranza diminuiscono come numero ma aumenta la spesa. Gli ultimi dati sulla mobilità attiva e passiva relativi al 2016 confermano che il fenomeno dei pugliesi che vanno fuori regione per curarsi diventa sempre più oneroso per le casse regionali, quindi il governatore Emiliano ha tutta la nostra solidarietà. Il saldo negativo per le casse pugliesi è di 314 milioni, io mi chiedo se sia questa una priorità o no, ma perché questo è il costo per il bilancio regionale della Puglia delle cure dei pugliesi fuori regione, è il prezzo per l'inadeguatezza dei servizi sanitari che spinge i cittadini sfiduciati a andare a curarsi fuori regione, sostiene il deputato di Forza Italia Rocco Palese. Va bene, alla fine tra l'altro sono i soldi che poi ricadranno in parte anche sugli stessi pugliesi, perché ci saranno tasse regionali aggiuntive per 270 milioni di euro. La mobilità passiva supera il 10% e le prestazioni sanitarie erogate in Puglia sono al di sotto dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Lo lascio come nota per il futuro al governatore Emiliano, che magari una volta interverrà anche su un grande progetto di risanamento della sanità pugliese, perché la Puglia, assieme a un'altra regione, riprendo la classifica, un'altra regione del sud, mi sembrava la Campania, è la regione che ha il record come costo dei viaggi della speranza, del turismo, diciamo così, sanitario. Era per lasciare uno spunto, visto che mi sembra che sia solo l'Ilva o gli Ulivi, diciamo, il tema della sua agenda. Andiamo al quarto posto, e qua oggi andiamo a Roma, oggi se la giocano molto tre regioni, una è Roma. Che cosa è successo? C'è un problema di raccolta dei rifiuti a Roma, l'abbiamo spiegato in tutti i modi possibili, ma la cosa interessante è che il tritovagliatore promesso per Ostia è effettivamente arrivato a Ostia. Tu mi dici, ma che cavolo stai... No, attenzione, la cosa è un po' diversa. Più volte era stata negata l'intenzione di trasferire il tritovagliatore mobile AMA da Rocca Cencia a Ostia. Poi, quando invece a domanda l'assessore regionale rifiuti Mauro Buschini ha detto sì, l'autorizzazione chiesta da AMA, che è la municipalità dei rifiuti, è stata concessa e quindi il tritovagliatore mobile va ad Ostia, L'assessore all'ambiente del comune Pinuccia Montanari ha minimizzato: le autorizzazioni richieste in regione sono una procedura di rito per mantenere nella disponibilità di AMA un piccolo tritovagliatore mobile. Si tratta di una macchina che vogliamo trasferire in altre località. Io non capisco perché ci si debba vergognare se, vista la situazione dei rifiuti a Roma e ad Ostia, arriva finalmente il tritovagliatore mobile. Tutto questo mentre gli operatori dell'AMA preparavano la sede in via dei Romagnoli per il nuovo macchinario, che è arrivato ad Ostia, ma il neo direttore operativo di AMA tranquillizza i residenti e dice: è come una macchina che deve stare in garage pronta all'uso, servirà in caso si fermassero gli impianti. Questa è una roba da pazzi. Ma mi spiegate, io devo dar ragione in questo caso alle consigliere del PD Valeria Baglio, Ilaria Piccolo, ma c'è anche Monica Picca di FDL. Ma perché, se AMA ha un impianto mobile funzionante, non lo vuole utilizzare e continua a spendere 9 milioni di euro dei contribuenti per inviare i rifiuti da trattare in Toscana, in Abruzzo? Questo resta un mistero. Ma che vi vergognate del tritovagliatore? Cioè, come se sotto una certa latitudine in questo paese ci si vergognasse dell'avere raccolto per i rifiuti inceneritori, magari no, meglio non averli, termovalorizzatori sì, cioè tutto quello che viene fatto in altri paesi del centro-nord Europa. Ma porca, è meglio avere i cassonetti stracolmi. Ancora ci sono i cassonetti, quando nei paesi, nelle città civili, i cassonetti sono stati eliminati. Cioè, ancora ci sono i cassonetti, però se c'è il tritovagliatore, no, teniamolo in garage, non vi preoccupate, non lo usiamo. Meglio spendere soldi per mandare in Toscana o in Abruzzo, oppure peggio ancora in Austria. Abbiamo raccontato, c'è un'intera comunità fatta di 300.000 persone che vive grazie al termovalorizzatore che trasforma in energia i rifiuti dei romani. E chiaramente la città di Roma paga milioni e milioni all'anno per trasferire i rifiuti. Vabbè, andiamo al terzo posto dopo il tritovagliatore. Qui, insomma, la dote diventa dura, ma andiamo in Sicilia, dove rientra un tema, ho capito che è quasi Natale, però il tema del merito dei dirigenti della pubblica amministrazione. Abbiamo raccontato come ormai, come in moltissimi ministeri, gli obiettivi raggiunti siano al 100% o comunque al 90% per il 90% dei dirigenti, cioè praticamente è fatto quasi un torto al dirigente che non lo becca, perché tutti raggiungono sempre gli obiettivi. Perché lo dico? Perché la Regione Sicilia lo scorso 4 gennaio, quindi un anno fa quasi, mandò un diktat a tutti i dirigenti delle strutture sanitarie dicendo: attenzione, dovete ridurre le attese pre-ricovero al pronto soccorso e migliorare l'accoglienza, e lo dovete fare in tempi brevi, perché faremo controlli ogni 6 mesi. Se questo non avverrà, perderete la premialità, cioè il bonus, e avrete un cattivo voto, diciamo così, nelle pagelle di fine mandato. Sono passati 11 mesi, non si è mai visto un controllo, e credo che poi, no? Altro che la minaccia urlata senza controlli serve a poco. Non si è mai visto un controllo. Ma nel frattempo tutti i commissari alla guida di ospedali e ASP, le ASL di una volta siciliane, convocati nelle settimane scorse, sono stati valutati su tutti gli obiettivi da raggiungere, tranne uno. Indovinate qual è? Proprio quello che avevano stabilito un anno fa, cioè a inizio gennaio. Non si è guardato se avessero raggiunto o meno l'obiettivo di ridurre e di migliorare i tempi sia sul pronto soccorso, quindi di pre-ricovero al pronto soccorso, che sull'accoglienza. Con la conseguenza che, avendo valutato tutti gli obiettivi tranne quello più importante a mio avviso, di cui tutti se ne erano fregati, tutti i 18 manager hanno potuto intascare i bonus economici. Faccio notare che a me non me ne frega nulla quante mail hai mandato o quanto ci metti a rispondere, diciamo, alla direzione generale. A me, come cittadino a un siciliano, interessa che tu riduca i tempi di pre-ricovero, pronto soccorso e l'accoglienza. È fondamentale, altrimenti si spostano nel privato con un costo ulteriore. Ma quel punto è stato sospeso. Tant'è che L'ingolfamento del pronto soccorso costringe migliaia di persone, praticamente 12.000 nel 2015, a sostare per giorni, alle volte per settimane, su barelle improvvisate nei corridoi delle aree di emergenza perché nei reparti non ci sono più posti letto. Ma ciò nonostante, nonostante ci siano anche due sacerdoti di frontiera, Cosimo Scordato e Franco Romano, che hanno lanciato una raccolta firme per chiedere al governatore Nello Musumeci e alla sua giunta di intervenire, rimuovere i manager che non c'entrano l'obiettivo, cioè, ma se ne devono occupare due preti di frontiera, ma andate, vabbè. Altre richieste riguardano il potenziamento degli organici, non dei dirigenti ma del personale infermieristico anche, che è ridotto all'osso, l'aumento dei posti letto. Chiede un cambio di passo anche Carmelo Pullara, l'ex manager del Civico di Palermo, rimosso da Crocetta nonostante fosse stato giudicato dall'agenzia ministeriale Agenas tra i migliori. Dice: nel 2011, quando arrivai all'ospedale Civico di Palermo, c'erano tempi medi di permanenza in pronto soccorso superiori a 36 ore al pronto soccorso. Ma chiamatelo lento soccorso, che pronto soccorso? 36 ore, uno fa tempo a rinascere. In pochi mesi, con azioni mirate e un diverso governo dei posti letto nei reparti, siamo scesi a 8 ore. Adesso siamo tornati a 36 ore. Questo lo dico al neo governatore Nello Musumeci, poi ci occuperemo anche di cosa ha deciso invece l'Assemblea regionale siciliana, perché il problema non è solo di soldi, di risorse, è di cacciare gli incapaci, perché ti dimostra il caso di Pullara, come altri casi, visto che parlavamo dell'ATAC e dell'AMA, che quando il dirigente è bravo, sì, è chiaro che deve avere forse anche un investimento economico, ma in primo luogo è l'organizzazione del lavoro. Lui ha ridotto da 36 ore a 8 ore semplicemente lavorando meglio, un diverso governo dei posti letto nei reparti, azioni mirate. Ma se tu li premi tutti e 18, levando l'unico elemento di discrimine che serviva, siete riusciti a ridurre o no l'attesa nei pronto soccorsi e nell'accoglienza, è chiaro che questi non faranno mai una mazza. Ok. Dai, traffico. Focus Economia. minuti, andiamo al secondo posto, torna Roma. Potevo anche citare il caos sulla linea C della metropolitana, lo faremo la prossima volta, vabbè. Però qui c'è un ponte a Roma, ce n'è più di uno di ponti a Roma, ma questo ponte è un ponte di 22 metri ed è un ponte che deve servire al cosiddetto corridoio della mobilità Eur-Laurentina Tor Pagnotta. Che cosa è successo a questo ponte, voi direte? Ecco, è stato costruito nel 2011, mai aperto e soprattutto adesso va demolito e ricostruito da capo. Poi ci saranno, c'è anche il rischio di ricorsi, contenziosi. E serviva a che cosa? Allora, l'intera opera Euro-Laurentina Torpagnotta sarebbe dovuta costare 163 milioni di euro e dovrebbe essere inaugurata nel settembre del 2018. Ma sull'opera si sono accesi i riflettori della Procura di Roma e della Corte dei Conti, sia sul fronte degli extra costi, faccio notare che in questo rientrano i famosi 45 filobus per il cui acquisto l'ex numero uno di Eur SPA Riccardo Mancini è stato condannato, ex dirigente del sindaco Alemanno, a 5 anni di carcere. Il PM Paolo Ielo ha chiesto di condannare l'ex dirigente della Giunta Alemanno a 5 anni di carcere per l'accusa di aver intascato una tangente da 600.000 euro. Al di là di questa vicenda, il corridoio Euro-Laurentina-Torpagnotta e il gemello Euro-Tordecenci aspettano ancora di essere conclusi da quando? Dal 2004. Il primo passaggio in Consiglio Comunale infatti avvenne alla presenza dell'allora sindaco Walter Veltroni. Che cosa è successo al ponte? Allora, nel 2015 un collaudatore esterno, tale Roberto Bottari, va a fare il collaudo e si accorge di una cosa che quando l'ho letta non ci credevo. Si accorge che le travi che reggono il ponte sono costruite senza recare la marcatura europea CE. Lo sanno anche i bambini che c'è un CE accanto ai materiali di carattere europeo, il famoso CE che trovate dappertutto, quello su cui la Cina anni fa giocava, sembrava europeo ma in realtà era cinese, il CE. si accorge di sta cosa. Scrive 23 febbraio 2016 al responsabile unico del procedimento della stazione appaltante Roma Metropolitana, che si chiama Margherita Meloni, e al presidente della commissione di collaudo Domenico Sandri, facendo rilevare l'incongruenza, e dice: guardate che la De Sanctis Costruzioni S.p.A., che è concessionaria dell'intero appalto, e la società fornitrice delle travi, la Sigma C di Mestre, hanno prodotto solo un attestato di equivalenza che non può però sostituirsi alla certificazione di legge, lo capisco anch'io, in quanto, come scrive l'ingegnere, non appare rinvenirsi riscontro alcuno negli ordinamenti vigenti. Allora, io mi chiedo, ma come cavolo è possibile che a opera conclusa, dopo 4 anni, ci sia bisogno di un collaudatore esterno per accorgersi che sulle travi non c'è scritto CE? È una roba da pazzi? Non viene contestata subito la documentazione? Cioè bisogna aspettare altri anni? Fatto sta che a 6 anni dalla sua realizzazione, perché il ponte c'è, è che non va bene. E a 2 anni dalla scoperta dell'inghippo, il ponte sul fosso di Torpagnotta è ancora al suo posto, con le travi non a norma. Inizialmente la De Sanctis Costruzione aveva annunciato di volersi far carico della rimozione delle travi, che comporta comunque la totale demolizione dell'impalcato. Vabbè, demolita l'impalcato. L'assessorato a mobilità di Roma non è preoccupato, dice: la data del taglio del nastro resta settembre 2018, non vi saranno ritardi. La Sigma C ha risposto ai chiarimenti: è un problema strettamente burocratico, le travi sono sicure, hanno superato i collaudi, sono state costruite a cavallo dell'entrata in vigore delle nuove leggi, non avevano la marcatura CE, i nostri materiali sono sicuri, è uno spreco di soldi buttarlo giù, quanto costerà? Insomma, il ponte è lì, ma non si può utilizzare. Oh, qualcuno mi dice... due cose. Ah, lei fa campagna contro 5 Stelle. Aspetti, il primo posto in classifica non mi sembra. Abbiamo parlato di Emiliano, abbiamo parlato della regione Sicilia e non mi sembra che abbiamo vinto i 5 Stelle in Sicilia. Se a Roma governa la Raggi, io parlo di Roma come parlo di qualunque altra città. Piantatela con sta roba che ogni volta che tocco Roma sto attaccando i 5 Stelle. Perché non scrivete la stessa cosa quando critico Emiliano o quando critichiamo la regione Sicilia che è governata da Forza Italia? E basta con sto vittimismo alla carte. Uno, due, altri scrivono: ma perché non parla di Spelacchio? Perché Spelacchio è talmente, diciamo, mai siamo stati spelacchiati anche a livello europeo, il Guardian, i giornali stranieri, cosa mi metto a sparare sulla Croce Rossa di Spelacchio? Ma andiamo al primo posto, va là. And the winner is la regione Sicilia nella sua nuova formula. Io non so che cosa sia successo, ma insomma è arrivato, c'è la nuova giunta. E il nuovo presidente che prende il posto di Giovanni Rizzone è Gianfranco Miccichè, e quindi è lui che regge l'assemblea parlamentare, il parlamentino siciliano, l'assemblea regionale siciliana, che è equiparata alle Camere, cioè a Senato e Camera dei Deputati. Che cosa ha deciso come prima cosa? Praticamente il regalo di Natale si chiama 10 milioni di euro di costi in più, praticamente il 30% di tutta la spesa del personale, perché il 1 gennaio 2018 scadrà uno dei pochi accordi, a mio avviso, di buon senso siglati dentro Palazzo dei Normanni, quello fatto da suo tempo da Giovanni Radizzone, l'accordo per inserire un tetto agli stipendi dei dirigenti, 240.000 euro l'anno, pari a 20.000 euro lordi al mese, anche perché era lo stipendio, se ricordo male, del primo presidente della Corte di Cassazione. Cioè, c'è un motivo di questi 240.000 euro. Che cosa ha fatto Miccichè appena arrivato? Ha levato i 240.000 euro. E quindi il trattamento economico dei consiglieri regionali e dei dipendenti sarà uniformato a Palazzo Madama. Ma soprattutto si tratta, è stato giustificato il provvedimento perché quella era una solidarietà una tantum. Faccio notare il buco che regna sovrano nei conti della Sicilia, il buco che regna sovrano, ma non c'entra. Ma tra l'altro Miccichè ha giustificato la cosa dicendo: secondo voi un giocatore come Dybala potrebbe mai giocare come gioca se avesse un tetto al suo stipendio e guadagnasse quanto un giocatore di Serie B? Non credo affatto. Pensare di essere tornati al sistema marxista dove tutti sono uguali, credo che la storia abbia già bocciato questo sistema. Miccichè, ma che cosa sta dicendo? Intanto lei paragona Dybala, se non ricordo male, appartiene alla Juve,

18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Patrizio Donnini, cosa fa Chisi, chi vi ha aiutato, quanto fatturate, quanti siete, dove andate? Un fiorino. Prego. Buonasera. Buonasera. Allora, noi siamo una giovane startup di Firenze, siamo il primo servizio check-in e check-out completamente automatizzato. Diciamo, il nostro è un'attività rivolta al mondo dell'extraalberghiero, diciamo quello che oggi viene chiamato l'home sharing, per tutte quelle che sono le attività che vengono svolte in fase di check-in nel momento in cui si accoglie un ospite, quindi un guest, nel proprio appartamento, sia che sia l'appartamento gestito in modo, diciamo, privato, sia perché che, diciamo, ha fatto ormai un'attività vera e propria. Attualmente, sì. Questo poi che applicazione ha e a chi lo state vendendo? Lo stiamo vedendo in questo momento a host e a property manager, quindi sia al singolo proprietario privato che oggi ha il suo appartamento che lo mette in rendita, o a chi invece ha organizzato per le proprie aziende che si occupa di gestire patrimoni immobiliari e quindi immobili in affitto per fini turistici. Ecco, avete un piano di aperture anche a breve, cioè nelle varie città? Immagino, sì, in primo luogo quelle più ambite dal turismo, penso. Sì, assolutamente, ha ragione. Noi abbiamo attualmente aperto Firenze e Roma, stiamo aprendo Milano e Venezia, che sono, diciamo, le prime quattro città diciamo, in Italia per turismo extraalberghiero. Stiamo attualmente valutando l'apertura su Barcellona, Londra e Parigi. Oh, bene. Sono, chi vi ha, aiutato e quanto fatturate? Allora, diciamo che non ci ha aiutato nessuno, nel senso, questa è un'idea che nasce a novembre dell'altro anno per un'esigenza vera e propria di host, quindi in mia prima persona io avevo il problema di dover essere sempre disponibile per far accogliere gli ospiti, e quindi, diciamo, ho pensato di cercare sulla rete un sistema alternativo, visto che non c'era niente, tant'è vero che abbiamo depositato il brevetto di Chisi in 151 paesi del mondo. Bravi, bravi. Quanti siete? Mi dici se ho fatturato? Sì, noi siamo attualmente 10 persone, diciamo, abbiamo l'obiettivo 2018, perché siamo partiti da settembre 2017, circa 2 milioni di euro. Oh, in bocca al lupo a lei, ai fondatori, e lei è uno dei fondatori, chiaramente, alle 10 persone che lavorano, e sperando che lei riesca a centrare l'obiettivo per il 2018. Mi chiedete l'età, lei ha 42 anni, giusto? 42 anni, sì. Che cosa faceva prima? Io tuttora mi occupo di comunicazione, ho un'agenzia di comunicazione, consulente in comunicazione. Allora, in bocca al lupo anche a Chisi, e invece noi cambiamo tema, la borsa ve la do molto velocemente, non so, la classifica amareggia molti di voi, ho capito, no, fra un po' la elimineremo, cosa devo fare? Meno 0,14% Milano, meno 0,40% Parigi, meno 0,30% Francoforte, sono borse già con la testa in vacanza. Londra meno 0,15, Dow Jones meno 0,18%, tra i titoli segnalo, ma poco mossi, Biper meno 2, Unicredit meno 1,60, Banco BPM meno 1,30 come Yux Intaporte, Leonardo meno 1 come UbiBanca. E invece sul fronte opposto, Buzzi Unicem più 1,80, Recordati più 1,50, Banca Generali più 0,80, Luxottica pure, Tenaris 0,70 di rialzo come Moncler, migliori e peggiori in assoluto, MNC più 7,14, Italia Independent più 6,70, fronte opposto Carige meno 12,90%, Poligrafici Printing meno 6,80, Brioschi meno 4%, Plastic. Allora, Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato di TIP Tamburi Investment Partners, società quotata Piazza Affari, ha varie partecipazioni. Cosa fa? Prende i soldi di chi glieli dà, senza rubarli, e li investe dove pensa che possano fruttare, in società spesso quotate ma non necessariamente quotate. Ha il 2,7% di Amplifon, non lui ma la TIP, la società, il 18% di Digital Magics, una piccola quota in Ferrari e in Fiat Chrysler, una quota anche qui dell'1%, 1,3% in Hugo Boss, il 2,5% di Moncler, il 12% degli yacht Azimut, il 19% di Italy e varie altre partecipazioni. Buonasera. Buonasera a voi. L'anno scorso lei, ospite assieme all'astrologa che fra poco arriva, era abbastanza più che ottimista, diciamo, sull'anno mi sembra di poter dire che visto quello che è successo, Piazza Affari più 17%, Borse Europee più 12%, questo da inizio anno, Petrolio più 13%, Wall Street più 20%, contento di aver avuto ragione? Ovviamente sì. Ma cos'è che l'ha sorpresa di più? Il rialzo, diciamo, le revisioni sul PIL degli ultimi mesi, oppure secondo lei era tutto già previsto che l'economia stesse migliorando più delle attese? Ma l'economia stava già migliorando più che più delle attese, più che quello che i media raccontano, nel senso che tante volte voi del mondo dei media cercate più i grigi che i rosa, perché i rosa non fanno gran notizia, eccetera eccetera. Si vedeva, e quello che io ho detto un anno fa era semplicemente il risultato di tante partecipazioni nei consigli di amministrazione che ho, di tante società che vedo tutti i giorni, e per cui il PIL che aumentava, il dato che sta venendo fuori non mi ha sorpreso né come Italia né come Europa, e anche tra l'altro all'epoca ero tra i pochi ottimisti anche su Wall Street, mentre invece tutti dicevano ai massimi c'era la bolla, c'era il crollo eccetera eccetera. Ha fatto più del 20 e molto spesso durante l'anno abbiamo visto i record. Secondo lei la riforma fiscale di Obama farà crescere ulteriormente Wall Street? Di Trump magari. Il lapsus freudiano, la riforma fiscale di Obama e la riforma sanitaria di Trump. Vabbè, la riforma fiscale di Trump farà crescere ulteriormente Wall Street? Credo di sì, in parte già scontata, perché queste prime settimane l'hanno già scontata i mercati, però sicuramente quando si vedrà materialmente provvedimenti c'è un tale beneficio sull'utile netto delle aziende, per cui sui dividendi, e calcoliamo che i dividendi oggi contano molto più che in passato, perché il mercato dei titoli di Stato nel mondo si è molto assottigliato, per non dire che è quasi morto. Il mercato delle obbligazioni non ha valore, per cui le aziende che potranno pagare meno tasse, per cui più alti dividendi, daranno soddisfazione e secondo me continueranno a crescere in borsa. Dopo questo per quello che riguarda lo scenario anche futuro su Wall Street, mi dica una cosa, tra le partecipazioni che lei ha, che sono tante, quanti sono i soldi investiti complessivamente dalla TIP? 2,5 miliardi. 2,5 miliardi di soldi che lei gestisce e investe. Sì. Senta, tra queste partecipazioni c'è un figuru, c'è un comune denominatore, nel senso sono aziende tutte con vocazione all'export o posizionate sui mercati, oppure mi dica? No, non c'è quell'aspetto esportazione, anche se ce ne molte che esportano. Direi che il fil rouge è l'eccellenza, cioè noi andiamo a cercare aziende che abbiano il coraggio e la voglia e l'ambizione di crescere attraverso acquisizioni, di crescere attraverso operazioni di carattere straordinario, per cui di mettere una marcia che l'azienda normale normalmente non ha. Pensiamo a Interpump, la società più antica in cui siamo entrati 15 anni fa, ha fatto 33 acquisizioni da quando siamo entrati, o ad Amplifon che ne ha fatte una quindicina, Prismian, la public company di cui siamo uno dei primi azionisti, forse ancora il primo, giorni fa ha annunciato una acquisizione da 3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, un fatto unico per l'Italia. Oh, questa è la prospettiva di Giovanni Tamburi, che noi ogni anno prendiamo in modo da avere anche un riferimento anno su anno. Ricordo però a chi mi sta scrivendo che lo stesso Tamburi fu quello che ammise, oddio, nel 2009-2010 di avere completamente cannato e sbagliato le previsioni, quindi insomma è anche capace di chiedere scusa, non è una cosa così comune in questo paese. Andiamo sul traffico e poi vediamo un altro approccio all'andamento dei mercati finanziari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Fa la magia, tutto quel che vuoi tu, bibidi bobidi bu. Grazie a Mirti, astrologa, autrice del libro per il Sole 24 Ore, Investire con gli Astri. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, lei aveva detto l'anno scorso che siamo tutti insieme, che non posso fare l'intera lista, era l'anno che iniziava col pianeta nell'insegno dei pesci. Mi dica subito come andrà l'economia nel 2018 secondo gli astri, visto che, come lei ci ha spiegato molte volte, anche le borse hanno un segno. Milano, certo. Milano che segno ha? Non me lo ricordo più, però insomma, Acquario. E come... invece le borse di New York, Tokyo e Londra sono tutte e tre toro. Infatti c'è la statua, cioè, pure davanti a Wall Street. Allora l'anno 2018 è molto differente dal 2017, prima di tutto perché cambiano in cielo degli importanti pianeti. Saturno ha lasciato il Sagittario con il nostro sollievo ed è entrato nel Capricorno due giorni fa. E quindi si fermerà lì per due anni e quindi mezzo. Quindi io che sono Sagittario non ho più Saturno contro, ho detto una cosa giusta? Bravissimo, già una non bella so cosa notizia. Voglia dire avere Saturno contro, non so che vuol dire sfiga. No, però, non era Saturno contro, cosa era avevo? Saturno nel segno. Saturno in Capricorno, Giove è entrato il 10 ottobre in Scorpione, ci resterà tutto l'anno, e soprattutto il 15 maggio Urano, che passa una volta in ogni segno, ogni 84 anni, sarà nel segno del Toro. Io dico subito che l'inizio dell'anno non sarà veramente molto positivo, ci possono essere dei cali dei mercati, perché Marte e Giove associati nel segno dello Scorpione si oppongono alle borse, quindi è possibile che ci sia un assestamento, una diminuzione. Dopodiché c'è un punto nevralgico dell'anno che è tra fine marzo e maggio, quando una serie di pianeti, che non sto a elencarvi, saranno tutti concentrati nel segno del Capricorno e non saranno sfavorevoli alle borse, però potranno portare delle conseguenze su tutti coloro che sono nati nel segno. Per esempio il nostro Kim della Corea del Nord è nato proprio in dicembre. Il nostro. Quindi lei, aspetta che devo dare una sintesi, perché a chi sta criticando forse si è perso il motivo. Nel 2009, in piena, a dicembre 2009, in piena crisi scoppiata finanziaria, facciamo un ragionamento. Siccome Goldman Sachs, una delle banche più importanti al mondo, ad agosto del 2008 va a prevedere il petrolio a $200 e a ottobre 2008 salta per aria Lehman Brothers con la conseguenza che il petrolio va a $30, abbiamo detto: se questo è il modo di fare le previsioni, allora tanto vale anche l'astrologia. E da allora non abbiamo più smesso, perché riteniamo degna l'astrologia, come il monkey business, cioè la scelta fatta dalla scimmia, di alcune previsioni che abbiamo visto in questi anni fatte o da incompetenti o da truffatori, perché prevedevano una cosa e andavano a fare l'opposto con l'altra mano. Anche questo è un giochetto a cui la finanza ci ha abituato. Quindi inizio anno debole, aprile-marzo una svolta, mi dice i settori... Poi diciamo che la cosa può rimanere abbastanza stabile, ma senza più gli exploit che ci sono stati quest'anno. Cioè diciamo che avremo una sorta di caos calmo, insomma. Caos calmo. Il Bitcoin, lei ha previsioni su Bitcoin? No. Bitcoin, ho scritto l'altro giorno un commento all'oroscopo, anche lui è Capricorno, però secondo me la partita è molto delicata, non mi fiderei assolutamente di... Senta, ultima domanda che poi voglio chiudere di nuovo su Tamburi e su quello che lui vede negli investimenti che fa, nelle aziende che vanno bene, però anche nel paese, e qui torna a essere serissimo, dove aumenta il rancore e il disagio, cosa che stiamo raccontando, in chi non vede nulla di sta ripresa, però... Per quello che riguarda l'Italia, visto che avremo le elezioni e quant'altro, la prospettiva economica dell'astrologia sul nostro paese? Ma sul nostro paese io direi che ci voglia una notevole prudenza. Temo che se le elezioni avverranno il 4 marzo salterà fuori una confusione molto spiacevole. Qui non serve l'astrologia, però abbia pazienza. No, però le aggiungo anche che abbiamo il premier attuale Gentiloni, che è Scorpione, e che ha delle buone chance di continuare, quindi di qui possiamo già vedere questo. Per quanto riguarda la parte finanziaria e economica, direi una tranquillità senza cadute, ma neanche senza grandi exploit. Senza grandi exploit. Mamma mia, i puristi. Allora, qualcuno mi scrive: lei sta mandando in onda il medioevo dell'economia. Ho detto astrologia, ma perché? Non capisco l'ironia. Ho capito, se ne faccio una ragione. Su. Poi dopodiché, azzeccare per azzeccare, guardatevi le previsioni dell'anno a inizio anno. Torniamo a Giovanni Tamburi. Tamburi, lei che ha investito con successo, aveva previsto un andamento economico migliore delle attese. Però si sarà dato o avrà cercato una ragione al perché, nonostante un miglioramento dei dati economici innegabile, come dice il Censis, aumenti anche il rancore. Cioè è come se al dare una buona notizia, per quanto relativa, per quanto ancora insufficiente, per quanto parziale, chi non ne vede nulla aumentasse ulteriormente la rabbia rispetto a quando davamo solo notizie negative e tutti dicevano vabbè dai, ma il comune è mezzo gaudio. Ma è vero, il rancore aumenta, il malcontento aumenta, la voglia di lamentarsi aumenta. Quello che però noi vediamo sulle aziende è che in particolare in Italia non troviamo facilmente operai specializzati. Nelle sue aziende, in quelle in cui le partecipa? Sì, ma in generale, non è che le mie siano diverse, sono 25 di un buon campione nazionale, per cui non è che siano una mosca bianca, sono una normale proxy di quello che è il mercato. Operai specializzati si fa fatica a trovarne, non solo, ma tante volte hai il sindacato che ti crea difficoltà a prendere l'extracomunitario, che costa di più perché devi formarlo di più, perché non capisce la lingua, perché è più lento, eccetera, eccetera, e per cui ci sono anche questi problemi. Purtroppo questa lotta, questa divaricazione nell'ambito dell'occupazione è uno dei grandi problemi. Per cui da una parte dicono di non trovare lavoro, ma tanta gente non lo vuol fare, perché tanta gente non vuole mettersi a fare l'operaio specializzato. E parlo di zone Reggio Emilia, Modena, Firenze, Bologna, Torino, non parlo di profondo sud nel quale effettivamente la situazione è molto più difficile. Che cosa potrebbe andare storto negli investimenti, quindi anche nei mercati azionari nel 2018? Ma sui mercati azionari tutti pensano al famoso coreano che può schiacciare il famoso bottone come fatto esterno, come catalyst di chissà Ciccio che cosa. Kim. Esatto. Io credo che alla fine non succederanno grandi cose negative, non solo, ma io ho l'impressione che le banche centrali e i governi di tutto il mondo abbiano ormai capito che la crisi costa carissima e per cui conviene ispessire, allargare questo telone di protezione che hanno messo sotto di noi e per cui con i tassi bassi che saliranno un pochino ma non creeranno nessun problema, di fatto favoriranno i mercati. Quindi si aspetta un aumento dei tassi molto graduale? Molto graduale, sì sì. E mi aspetto che che l'equity, per cui i mercati azionari continueranno a crescere proprio in virtù del fatto che in realtà non c'è alternativa a investire in aziende sane, profittevoli, che crescono, anche perché il mondo sta crescendo a 4%. La nostra povera Italia cresce poco meno del 2%, ma comunque cresce bene. L'Europa cresce bene e ha sorpreso in positivo quest'anno, per cui io vedo un anno di prosecuzione. Gadula, menci cabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Oh, continuando alternare sacro con profano, poi ognuno può stabilire cosa è sacro e cosa è profano, non me ne frega nulla. Faccio notare che Kim Jong-un è un capricorno coinvolto nel passaggio di Saturno, non sarà tranquillo nemmeno lui. Oddio, non è che l'anno scorso a forza di premere sto pulsante sia stato così tranquillo. Qual è il segno e quindi anche il mercato o l'esponente politico che avrà il 2018 più bello secondo l'astrologia? Grazie a Mirti. Ci sono alcuni segni che sono più favoriti. Sì. Uno è il segno della Vergine, il secondo è il segno dello Scorpione, non va male il segno dei Pesci. Quindi diciamo che ci sono diversi segni che però anch'essi hanno qualche piccola complicazione, ma è nella vita di tutti. Diciamo però che questi segni, secondo me, sono particolarmente bene e faccio notare che Gentiloni ha il segno dello Scorpione. Per sì, cui. Certo. Allora, grazie a Mirti, nonostante i detrattori dell'astrologia, grazie e buone feste anche lei. A Giovanni Tamburi, con cui andremo poi a verificare, come spesso facciamo durante l'anno, le sue previsioni e l'andamento dei suoi investimenti, grazie a ambedue. E soprattutto auguri di buone feste a tutti voi in ascolto, a partire da chi dovrà passare magari le feste anche lavorando, perché anche questo può succedere. Tranquilli, a Natale insomma, i mercati saranno stazionari, fu così che poi crollò tutto. Da Sebastiano Barigioni innanzitutto auguri di un buon fine settimana, un ringraziamento come sempre anche in vista delle festività a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in studio e in redazione. Focus Economia resta in onda durante tutti i giorni feriali, quindi dal 27 in poi. Io andrò in vacanza e comunque approfitto anche per fare gli auguri di buon anno a tutti gli ascoltatori. Ci risentiamo in un 2018 in cui non mancheranno alcune cose, per esempio la classifica, per esempio gli insulti e tutto il resto.